Certo. Io ti ringrazio. Di niente, sicuramente. È un piacere. Ringraziamo allora Giovanni Paglia e andiamo avanti con la nostra diretta speciale sugli sgomberi di Labà e non dimentichiamo anche del laboratorio Crash. Lo sai che Zwickel indicava la quantità di birra prelevata dal barile tramite un tubo speciale? Cosa? E che Zwickel Beer è uno stile di birra molto antico a bassa fermentazione, non filtrata, che le conferisce il tipico aspetto torbido. Non lo sapevo, ma... E che quindi l'Arcobroi Zwickel Beer ha un tempo di maturazione breve e così resta molto ricca di vitamine e sali minerali. Il caldo ti ha dato alla testa? No, il caldo mi fa venire sete. E cosa c'è di meglio della nuova e rinvigorente Arcobroi Zwickel Beer da godersi al fresco del pub La Locanda? Ecco dove volevi arrivare. Ecco dove voglio andare prima della chiusura estiva d'agosto al pub La Locanda di via Treves 19. Ciao ragazzi, sono Gugo, state ascoltando Radio Città Fujiko. 11:28, torniamo insieme sui 103.100 di Radio Città Fujiko in questa diretta speciale per quanto accaduto questa mattina in città. Lo sgombero duplice congiunto coordinato di due realtà sociali, due centri sociali tra i più grandi e più attivi in città, da un lato il laboratorio Crash di Via della Cooperazione, dall'altro invece abbiamo il Labà, il centro sociale Labà di Via Orfeo 46, sgomberati questa mattina con cariche anche ai manifestanti che stavano seduti pacificamente a fare resistenza passiva. Abbiamo già raccontato un po', vi abbiamo riproposto quali erano le fasi cruciali di questo sgombero, abbiamo sentito anche le parole di Giovanni Paglia, deputato di Sinistra Italiana, che ha sempre guardato con attenzione la storia, insomma, di Labà. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni poco fa. Continuiamo allora con le reazioni, gli approfondimenti quello che è accaduto oggi. Abbiamo ovviamente Coalizione Civica, altra forza politica, questa volta locale, cittadina, molto legata a Labà, perché di essa fanno parte anche alcuni attivisti di Labà che sono diventati consiglieri di quartiere, ad esempio consiglieri comunali. E il comunicato dice: oggi si scrive una pagina nera di Bologna, lo sgombero di Labà fa male perché non era solo un centro sociale, era accoglienza, laboratori per bambini, cultura, mercato, era un pezzo di cuore della città che batteva forte perché costruiva esperienza di socialità, mutualismo, cultura antifascista, un meraviglioso ecosistema. Fa male vedere blindare un intero quartiere con un dispiegamento di forze inaudito che ha cerchiato il posto da tutti i lati, fa male vedere che prima di sgomberare Labà avevano già sgomberato fondato anche il laboratorio Crash, due presidi antifascisti, due sgomberi coordinati in una torrida mattina di metà agosto che conferma un rito tra i più tristi di questa città. Indigna constatare che nonostante il dialogo aperto con le istituzioni questa mattina non ci fosse alcun rappresentante del governo della città, nessuno e nessuno a metterci la faccia, a monitorare la situazione, al limite a mediare, nessuno, ed effettivamente non sono arrivati neanche comunicati ufficiali fino a questo momento. Oggi la BA è stato occupato a forza, questa mattina chi ancora era a Bologna era seduto per terra a difendere questo presidio, sottratto alla sua funzione sociale, politica e collettiva, tutto questo per essere restituito forse a pochi e privilegiati, o forse davanti all'ennesima evidenza di una tale deriva verrà restituito semplicemente ai topi. Sosterremo tutte le mobilitazioni per la riapertura di la BA a partire dalla conferenza stampa che si terrà appunto questa mattina e che Radio Città Fujiko, questo lo aggiungo io, manderà in diretta. Tra le altre reazioni diciamo così più istituzionali, una particolarmente veemente è quella della FIOM. Noi abbiamo raggiunto un suo esponente, sentiamo.